piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Mi sono ammalata di Covid-19 e dopo, quando glielo dico a qualcuno, scappano, si allontanano, e tante persone che prima mi salutavano non mi salutano perché mi dà quasi l'impressione di essere ritornata al periodo di Manzoni con la peste e dai aiutoni. Ho avuto la malattia, ma adesso sono guarita, i tamponi sono negativi e mi rispondono, ma può darsi che tu che ritorni a malattia. E quindi, anzi, tante persone che prima mi salutavano stanno lontane perché ho paura che io le contagi ancora. Persone vicine che vado a salutare, che ad esempio dove vado a fare ginnastica, e che prima mi salutavano, adesso non mi salutano più e stanno distanti. Speravo che le cose cambiassero e invece purtroppo quando dico a una persona ti posso venire a trovare, non lo so perché ho paura di contagiarti, ma io mi sono guarita e quindi capisco che lei ha paura che vada a trovarla per contagiarla, perché non ho ancora capito che io ormai la malattia l'ho superata. Questa signora, ve la ricordate, l'abbiamo avuta al telefono qualche giorno fa, è Luciana, la nostra ascoltatrice, che raccontava una situazione di paradosso, perlomeno imprevedibile, soltanto qualche mese fa. Lei non ha nessun problema a dire che ha avuto il Covid, ne è uscita, è completamente negativa a tutti i test possibili, quindi una persona sana a tutti gli effetti, non può contagiare nessuno. Ma il fatto che lei abbia detto nel suo stretto vicinato, ma fra i parenti, amici e tutto, il fatto che ha avuto il Covid, la rende una possibile untrice, perlomeno nella percezione errata e distorta delle persone. Quindi Luciana vive da emarginata. I parenti, quando la vedono, la tengono a distanza. Se mai le è capitato di entrare a casa di qualche conoscente, la sterilizzano da capo a piedi, la tengono comunque sempre a debita distanza. Insomma, rispetto al resto dell'umanità, Luciana è una persona che ha l'onere di portarsi addosso uno stigma importante, dato logicamente dall'ignoranza, dalla non conoscenza. Questo è una ricaduta comunque nel nostro ordine sociale, nella nostra percezione delle persone che abbiamo intorno, dato da questi mesi di isolamento, di lockdown, dato anche dal momento che stiamo vivendo. Ci stiamo rendendo conto in maniera concreta e quotidiana di quelli che sono i nostri problemi dal punto di vista economico, dal punto di vista della gestione del nostro lavoro, dei nostri beni, della interruzione delle nostre routine, delle nostre abitudini, del fatto che è un'estate in cui ci dobbiamo porre anche il problema del tempo futile, del poterselo permettere o di avere voglia, desiderio di trascorrerlo nei luoghi canonici condizionati da tutte le norme che, per chi vuole seguirle, per chi avesse la bontà o l'attenzione a seguirle, comunque limitano la libera espansione del proprio desiderio di muoversi in luoghi di vacanza. Tutto questo ha una ricaduta anche nella nostra interiorità, anche nel nostro aspetto non immediatamente visibile. Un disagio emotivo da pandemia, volenti o nolenti, ce lo portiamo addosso. Io ci scherzo, ci ho ironizzato, ma io devo dire, lo dico con candore e spudoratezza, come sempre parlo di me, io forse probabilmente ho quella che si dice la sindrome della capanna. Mi trovo benissimo a continuare a lavorare da casa, mi trovo benissimo a tenere rapporti molto prudenti con il mio prossimo, mi trovo benissimo in una condizione di eterno seppellito in un luogo dove vivo, dove passo il mio tempo libero, ma dove anche lavoro. Trovo fantastico alzarmi la mattina, organizzarmi la puntata e parlare dallo stesso tavolo dove magari il pomeriggio mi faccio uno spuntino. Questo sicuramente è un aspetto patologico, perlomeno non è un aspetto che avrei potuto prevedere soltanto qualche mese fa. Ora molti stanno scrivendo, i libri che stanno uscendo adesso sono tutti legati comunque all'esperienza, ai giorni del Covid, ma c'è in particolare uno che volevo presentare oggi, anche perché da oggi è libreria, lo faccio con un intento anche più profondo, oltre il semplice porre all'attenzione un libro che esce. È un libro i cui proventi saranno devoluti integralmente a favore dell'Istituto Nazionale per Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. È un libro in cui ha lavorato una mia cara collega, il titolo è Positivi, ritrovarsi dopo il disagio emotivo da pandemia. È un libro che proprio parla di tutte quelle che sono le ricadute affettive e sociali post-Covid. Gli autori sono Maria Emilia Bonaccorso, che è una collega dell'ANSA, caporedattore aggiunto alla redazione specializzata dell'ANSA, un'esperta di salute, medicina, sistemi sanitari. Ha impiegato il suo tempo di smart working, oltre che per il lavoro quotidiano, anche a pensare e immaginare questo libro, assieme a Massimo Cozza, che è uno psichiatra, direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 2. Ecco, poi ci saranno altre persone che hanno collaborato a questo libro, ne parleremo in corso d'opera, però vi chiedo di telefonare all'800240024, assieme agli ospiti che tra un po' sentirete a viva voce. E quali sono stati i segni più evidenti? Lasciamo perdere il problema economico, lasciamo perdere il problema, tutti importantissimi, la sindrome, la nostra ansia su cosa sarà di noi, delle nostre attività, delle nostre professioni, delle nostre vite, ma dentro di voi avete sentito uno scatto, qualcosa è cambiato, qualcosa non è più come prima, qualcosa vi dà come l'idea di essere sopravvissuti a qualcosa di terribile. Guardate che la sindrome da sopravvissuto è una sindrome importante, se ne è parlato per i sopravvissuti a momenti terribili della nostra storia, come i campi di sterminio, come le guerre, come le prigionie, e oggi si riparla di sindrome da sopravvissuto per le persone che ce l'hanno fatta, che hanno visto vicino a loro parenti, coetanei, persone care magari morire, magari non le hanno viste nemmeno morire, hanno saputo che sono morte, o perlomeno sono uscite dopo mesi chiuse nelle loro case, hanno l'idea, dice, ma in che mondo mi trovo oggi io? Questi sono i temi che mettiamo sul campo e cominciamo a parlarne con gli autori di questo libro. Maria Emilia Bonaccorso, buongiorno. Buongiorno. Allora, Maria Emilia è una mia cara collega, che è il mio punto di riferimento tutte le volte che ho un problema che riguarda la sanità, un dubbio o devo in qualche maniera far sapere al mondo qualcosa che riguarda il mondo della sanità, nel senso più ampio della vicenda. A tutti noi è venuto in mente, scriviamo qualcosa, facciamo un libro sotto Covid, però la maggior parte di noi l'ha pensato, poi non l'ha fatto, io non ci ho avuto voglia. Tu invece ti sei impegnata e l'hai fatta, sei riuscita. Mi dici i punti essenziali che hanno mosso questa tua ricerca? Sì. Allora, guarda, quello che stava accadendo era talmente eclatante, talmente forte, e aveva una dimensione così epocale che era difficile non fermarsi, ragionare, scrivere qualche cosa, anche per avere una traccia dentro noi stessi, ma anche, diciamo, anche professionalmente per quello che faccio, di quello che stava accadendo, cercando di analizzarlo. Diciamo, gli aspetti scientifici erano e sono difficili da analizzare perché in continua evoluzione. Cioè questo è un punto fondamentale, Maria Emilia, che tu, nessuno di te lo può spiegare ai nostri ascoltatori. Tu lavori in un'agenzia, quindi tu minuto per minuto cogli quella che è la notizia e il tuo dovere è mediare quella notizia. Quando parli di temi che riguardano la scienza, l'evidenza scientifica e la sanità, deve esserci la consapevolezza che una notizia può essere anche contraddetta, sovrascritta da quella che arriva dopo un'ora, dopo due ore, dopo tre ore, perché la scienza, esatto, è fatta così, non sono verità assolute. La scienza è dubbio, è questo che è emerso ed è esploso in questa vicenda. Bisogna cercare di comprendere attraverso questa esperienza che la scienza è dubbio, che la scienza sono passi successivi, cambiamenti, evoluzioni, cambiamenti di prospettiva. Non c'è una certezza unica continua. La certezza viene dalla politica, ma non dalla scienza. La politica ti potrà dire domani sarà questo e sarà comunque questo. La scienza è un'altra cosa. La scienza ti dice stiamo andando in questa direzione, ma potremmo scoprire qualcosa di nuovo. E questa è una cosa molto difficile da comprendere e anche da accettare quando si vive un momento così spaventoso come una pandemia mondiale. Ecco, quali sono gli indicatori che tu hai avuto sul fatto che una mutazione c'è stata? Non ce ne siamo magari resi conto ancora lucidamente, ma comunque nel nostro percorso evolutivo collettivo abbiamo avuto una mutazione, un arresto, una deriva, un'uscita dal percorso più scontato, e oggi in qualche maniera siamo diversi. Noi dicevamo questo slogan detestabile, ne usciremo migliori, e dopo sarà tutta un'altra cosa. Poi possiamo averlo ripensato e rimesso in dubbio mille volte, ma sul fatto che dentro di noi qualcosa sia cambiato, su questo tu hai una certezza? Sì, allora diciamo, io cerco di fare la giornalista cercando di fotografare quello che accade, quindi non sono una tuttologa, ma cerco di riportare le persone che hanno esperienza e competenza, e sono partita proprio da alcune osservazioni scientifiche, da alcune pubblicazioni scientifiche. Le prime sono uscite già un paio di mesi fa, dove si lanciavano degli appelli estremamente preoccupati, cioè l'effetto sulla psiche mondiale ci sarebbe stato molto importante e molto più grave nelle persone che già soffrivano di patologie, ma anche in persone che comunque erano costrette già per alcune circostanze, come disabili, a dover vivere in ambienti chiusi, e quindi hanno sofferto ancora di più di questa situazione, di questa esperienza. Era un allarme molto forte che non si poteva non ascoltare, e poi complessivamente, piano piano, ascoltando appunto anche i racconti personali delle associazioni dei malati, ma anche di chi ci stava accanto, è emerso sempre con maggior forza questo problema, questo disagio interiore, la paura, le varie sindromi, la difficoltà a immaginarsi in un nuovo mondo. Tu hai citato questa frase, no, che abbiamo detto tutti, ma ne usciremo migliori, abbiamo sperato in questa cosa. In realtà io purtroppo, che sono poi un ottimista, tant'è vero che ho fatto un libro che si chiama appunto Positivi, in realtà su questo io non sono ottimista, cioè io vedo che siamo tornati ognuno nella propria dimensione. Quello che è stato importante, che ci ha fatto sperare, è che improvvisamente da tanti io noi eravamo diventati un corpo unico, eravamo diventati un noi, e noi insieme, perché avevamo tutti quanti lo stesso corpo, che poteva anche fisico, che poteva essere colpito dalla stessa malattia, che poteva essere appunto danneggiato da un nemico, e abbiamo cercato tutti insieme con i nostri comportamenti di proteggerci, tutti quanti con gli stessi comportamenti, quindi eravamo diventati un'unità unica, no? Qualche cosa di clamoroso. Perlomeno pensavamo di poterlo essere, ecco, diciamo così. Abbiamo pensato, sperato, tentato di poterlo essere. Oggi siamo tornati alla dura realtà, ci rendiamo conto che più o meno le cose sono come prima in certi casi, e l'abbiamo registrato giorni fa, abbiamo fatto una trasmissione sui rapporti di vicinato. Dopo le bandiere, lo scambio del lievito madre e via dicendo, oggi si è tornati ancora più cattivi nel non tollerare le intemperanze che a noi danno fastidio ai nostri vicini. Volevo passare intanto all'altro autore di questo libro, allo psichiatra Massimo Cozza. Intanto buongiorno dottore. Buongiorno. Con lei volevo entrare in un campo un pochino più specifico, anche senza poi approfondire l'aspetto clinico, di cui non ho assolutamente competenza. Alcune parole chiave che sembravano per molti anche veicoli di emancipazione, di veloce evoluzione, di capacità di affabulazione digitale nelle nostre zone oscure più arretrate, come smart working, la video call, lo stesso lockdown, ci avessero comunque dato un'elasticità maggiore nel gestire dei rapporti che potevano essere basati anche su connessioni. Oggi che siamo tornati alla possibilità concreta e reale poi di rivedere le persone in faccia, di toccarle, di annusarle, perché poi vogliamo dire quanto vogliamo, le distanze di sicurezza ci sono nella folla, ma la sfera delle nostre persone, non soltanto legate agli schemi di frequentazione affettiva a cui eravamo abituati, ormai è abbastanza ampia, ci vediamo con un sacco di gente. Ecco, cosa è cambiato rispetto a prima, soprattutto dove si rientra in una sfera che può essere definita patologica, in cui una persona come lei deve intervenire, non è semplicemente un'impressione di esperienza passata? Ma diciamo che il discrimine rispetto a un intervento, chiamiamolo sanitario, le difficoltà di poter vivere con dei comportamenti o con dei sintomi che invalidano la vita quotidiana. Questo è un po' il punto centrale. Bisogna stare molto attenti. Cioè, quando non si riescono più a fare delle cose che banalmente si facevano senza pensarci, Può essere questa la traduzione banale? Ma dipende, allora c'è un problema anche temporale, cioè nel senso che il pericolo che si cada in una psichiatrizzazione di un disagio emotivo che è nella normalità, cioè se io ho una perdita, un lutto, è giusto che io stia male, che sia depresso, che sia triste per questa mancanza, per questa perdita che ho avuto. Anzi, se io sono, tra virgolette, normale, non sto reagendo in maniera appropriata. Quindi bisogna dare tempo al tempo, cioè nel senso che... Una normale elaborazione di un momento difficile. Esatto, esatto, perché poi magari delle persone pensano, cominciano ad avere insonnia, sudorazione, tristezza, stanno un po' chiusi a casa, non è un problema, se dura in maniera relativamente temporalmente limitata, e siamo in un aspetto normale, ovvio che se poi questo mi impedisce di andare a lavorare, di avere relazioni con gli altri, allora è un campanello d'allarme, e noi nel libro li abbiamo elencati questi campanelli. Come spiega una cosa che sono veramente curioso, professore, com'è possibile che soltanto un comportamento dissimile dalla nostra norma di 3 mesi ha sovrascritto l'abitudine di magari 30 anni di lavoro? Le faccio il caso di persone che lavorano come me. Io per 35 anni ho lavorato sempre alla stessa maniera. Per 3 mesi ho cambiato completamente schema di lavoro, collegandomi, parlando a distanza, stando chiuso a casa, e adesso mi sembra la totale normalità. 3 mesi come fanno a sovrascrivere 30 anni? Ma questo in tantissimi casi accade. Ma questo è dovuto a una plasticità della nostra mente che è sorprendente, una plasticità che si ha sempre nella vita, anche le persone più avanti con l'età l'hanno, e quindi la possibilità di modificare è insita proprio geneticamente, diciamo, nel nostro cervello, e quindi possiamo cambiare. La famosa parola che si usa ogni tanto, quello della resilienza, è un'altra, il fatto di saper resistere alle intemperie della vita. Pensiamo a chi ha vissuto in campi di prigionia, che è molto ovviamente più grave rispetto all'episodio della pandemia, e poi ce l'ha fatta. C'è stato uno studio che abbiamo citato che diceva che i soldati che erano rinchiusi in delle buche durante la guerra, rinchiusi in senso come prigionieri, si sono salvati pensando che sarebbero usciti. E quindi c'è una capacità in noi di poter modificare, adattarsi a ciò che ci accade intorno. Diciamo che questo momento, se vogliamo vederla in positivo, è servito per abituarci a capire che abbiamo delle risorse che magari nemmeno immaginavamo, e questo lo raccontavano anche i nostri genitori che hanno fatto le guerre, i bombardamenti, le fami, i rifugi antiaerei, via dicendo, e noi pensavamo fosse un gioco. Per la prima volta una generazione post bellica, almeno in Italia, si è resa conto che possiamo essere sottoposti a stress molto forti collettivamente, non come esperienza individuale, e possiamo farcela. Però la coda lunga rimane. Ci fermiamo ancora un istante. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Melog. 800240024. Ringrazio a Milano Peter Bescapè, che è in regia, in assistenza a Miriam Lucchetti, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Stiamo parlando di un libro che esce oggi, trovate in libreria, potete acquistare scrivendo alla casa editrice che è Publiedit, acquistandolo online. Il libro è Positivi, ritrovarsi dopo il disagio emotivo da pandemia, un libro che parla di tutte le ricadute sul piano sociale delle relazioni date dal momento di reclusione, di esclusione dalle nostre abitudini sociali. Il libro è scritto da Maria Emilia Bonaccorso, che è una giornalista dell'ANSA specializzata in temi medico, clinici e scientifici, Massimo Cozza, che è uno psichiatra, stavo parlando proprio con lui in questo momento di quelli che potranno essere gli aspetti al limite della patologia che derivano da questo tipo di reclusione forzata che abbiamo tutti vissuto con più o meno leggerezza. Il problema oggi è che siamo sin troppo leggeri, perché siamo, diciamo, in qualche maniera accasciati nell'abitudine di stare isolati, di mantenere distanze con le persone. I rapporti non sono più gli stessi, non abbiamo più la stessa fluidità, la stessa percezione degli altri. Ricordo che il numero è 800 24 00 24. Mi piacerebbe sapere da qualcuno del pubblico, se vuole telefonare oltre che ascoltare con interesse i nostri ospiti, se veramente avete capito che è cambiato qualcosa nel vostro gestire le relazioni, nel vostro sentirvi a contatto con gli altri, o semplicemente qualcosa che si diceva riguarda soltanto le persone maggiormente colpite. Massimo Cozza, sono varie categorie, l'ho detto prima Maria Emilia Bonaccorso, che hanno sentito con gradualità maggiore rispetto alla media questo periodo stanno sentendo. L'elenco a braccio, poi nel vostro libro ne parlate molto nel dettaglio. Gli anziani, che sono visti sterminare intorno persone, soprattutto se erano nelle zone cosiddette rosse. Le donne, che c'è stato questo cambiamento generale, che noi, devo dire, alla radio avevamo individuato sin dai primi giorni. Prevaleva un sistema arcaico e patriarcale in cui si ristabilivano dei ruoli precisi. Le donne stavano a casa, lavavano, si occupavano dei figli, lo facevano anche come divertimento i primi giorni, perché in fondo avevano i figli in casa, i mariti in casa e via dicendo. Poi è diventato uno sclerotizzarsi comunque su qualcosa che ci fa tornare indietro. E poi i bambini, dei bambini si è tanto parlato, molte volte anche in maniera idealistica esagerata, i poveri bambini che non hanno avuto modo di socializzare. Oggi abbiamo avuto il primo caso di un bambino che in un centro estivo a Roma è stato trovato positivo, e subito si è creato il panico per le centinaia di persone che hanno avuto contatto con questo bambino. Ma Massimo Cozza, è possibile, al di là delle categorie più a rischio, stabilire una media di disagio permanente nell'umanità che ha passato questa esperienza? Ma una media, io penso che non sia possibile, nel senso che il disagio di per sé è personale, cioè nel senso che lo stesso evento, anche la stessa pandemia, a ciascuno di noi colpisce in maniera diversa, ma per tante variabili che ognuno di noi ha. Basti pensare alle relazioni familiari, relazioni affettive, e gli ambienti in cui viviamo, se anche l'attitudine in cui no. Si vive. Lei, molte volte, io sentendo il pubblico in questi mesi, chi vive nelle zone più colpite aveva una percezione della pandemia più realistica. Chi viveva in zone non colpite, diciamo, ma basta, state esagerando, qual è il motivo? Diciamo che l'Italia è proprio nella sua essere un paese distribuito in lunghezza. C'era l'idea in certe parti, diciamo, ma di che state dicendo? Qua stiamo tutti bene, non c'è problema. E lo vivevano diversamente, indubbiamente. E questo è uno degli aspetti che noi esaminiamo, che in parte sta anche tornando. Cioè, nel senso che oggi, parlando un po' con le persone, a volte si ha la sensazione come se ormai fosse tutto passato. Ma basta guardare un po' oltre il nostro paese, e sappiamo che negli Stati Uniti non è così, in Brasile non è così, quindi che nel resto del mondo non è così. Però è un po' come la sindrome, all'inizio che pensavamo che Wuhan e la Cina fosse da un'altra parte, poi lo siamo diventati noi, poi adesso lo sono gli altri. Ma poi ci sono stati i lombardi che sono offesi, poi ci sono stati i meridionali che hanno avuto la loro rivalsa, poi ci sono stati i figli dei meridionali che dal nord andavano al sud. Cioè, abbiamo avuto, diciamo, una varietà di punti chiave e di possibili responsabili untori abbastanza diciamo, diversificata nel tempo, nei mesi. E quindi, come dire, la nostra emotività a volte supera quelle che è la realtà o i dati statistici. A volte qualcuno ha anche ultimamente negato che ci sia stata una pandemia. Noi nel libro riportiamo, e oggi lo possiamo dire, abbiamo oltre 10 milioni di persone che sono risultate positive, oltre 500.000 sono decedute. Questi sono fatti che dobbiamo tenere presente, ma con una, io direi, una sana preoccupazione anche emotiva, ma convivendo con la possibilità di scoprire, come oggi appunto ha detto prima, di un bambino positivo, ma sapendo che oggi abbiamo delle armi molto maggiori anche dal punto di vista emotivo, psicologico, per reagire, ma questo non significa dire tutto è passato, il ormai è lontano da noi. Ecco, a questo punto mi interessa avere l'osservatorio della giornalista che tutti i giorni è sottoposta a un fuoco di fila, le notizie arrivano da tutto il mondo, che deve ordinare, trasformare appunto nella nostra fonte primaria, poi fare trasmissione alla radio, scrivere giornali, dicendo. Maria Emilia Bonaccorso, sei d'accordo anche te? La domanda esula un po' dalla specifica competenza, però mi interessa il suo punto di vista, che in questo momento ci sia anche una sorta di nuova spartizione ideologica della percezione del rischio e del pericolo. Io lo trovai dai primi giorni quando e permane sempre di più e sempre più accentuata, e la politica in questo devo dire si comporta in maniera scellerata, perché persegue il proprio intento comunque di affermare il proprio punto di vista, giocando anche su questo fatto. Allora, la mascherina sì, la mascherina no, il rischio esagerato, le scuole, Dio mio, le scuole, perché perdete tanto tempo, perché non avete riaperto le scuole? Ecco, oggi con il bambino positivo che sta facendo stringere, non dico cosa, a centinaia di persone, ci siamo anche resi conto perché c'è tanta prudenza nel riaprire le scuole. Ecco, come lo percepisci te questa, e come l'affronti questa necessità di dare notizie tenendo conto che ci sarà sempre un pregiudizio in chi le legge dato dalla sua posizione ideologica, dal suo punto di vista, dalla sua affezione politica? Diciamo che la politica è in grado di cogliere, di raccogliere i disagi e i problemi e quindi di farli propri strumentalizzandoli a proprio uso e consumo. Sì, ma non è che giochiamo con qualcosa di leggero o di innocuo, giochiamo con la vita delle persone. Il gioco è sporco, lo sappiamo, è già successo in passato anche per altre grandi questioni di salute. Allora, la questione della salute, noi sappiamo da sempre che la salute l'argomento fra i più letti in assoluto sui giornali, no? Anche se poi la politica ha le pagine principali. Però è sulla salute che la popolazione concentra la sua attenzione, perché è la vita di tutti quanti. Ora, i disagi legati alla salute, le preoccupazioni legate alla salute, quindi sono uno strumento politico eccezionale. Questa cosa è già successa in passato anche per altre grandi storie. Io vorrei pensare per i vaccini, ti ricordi? Se ve lo ricordate, ci siamo già dimenticati, ma tutto prima, il problema dei vaccini, questo era. Esatto, ma ancora prima il caso di Bella divenne un di caso Bella, figurati, per la cura stamina, di Bella contro ce l'abbiamo avuta a tonnellate, cioè stamina. In ogni vicenda dove c'è la salute, la l'omeopatia politica, ultimamente è il problema dell'omeopatia. Il libro di Burioni oggi sta un po' nel basso profilo, è diventato un esperto di Covid, ma Burioni prima del Covid fece un libro disastroso dal punto di vista della sicurezza di chi era convinto che l'omeopatia fosse equiparabile alla medicina, e quindi anche questo è un fatto. Emilia, ci fermiamo solo un secondo per dare la linea per il traffico, poi riprendo proprio con te. Se la sportività che cerchi in un'auto non è solo parcheggiare sul marciapiede, se la tranquillità del divano è l'ultima cosa a cui pensi quando sali a bordo, se cerchi sempre qualcosa che non si confonda con gli altri, per te è arrivata nuova Seat Leon, sportiva, connessa, ibrida. Oggi con un nuovo design e l'esclusivo Seat Light Concept. Fari full LED, illuminazione interna a LED intelligente e personalizzabile e LED posteriore cost to cost. Nuova Seat Leon, disegnata dalla luce. Tua da 19.500 euro. Scoprila su seatitalia.it. Melog 800240024, vi ricordo che stiamo parlando di un libro, Positivi, ritrovarsi dopo il disagio emotivo da pandemia, di Maria Emilia Bonaccorso e Massimo Cozza. C'è la prefazione di Piero Chiambretti, che è stato duramente colpito, la madre è deceduta per Covid, lui stesso proprio ieri ha dichiarato che sentiva anche difficoltà a riprendere il suo lavoro per l'esperienza traumatizzante che ha avuto. Ci sono i contributi di Massimo Biondi e Maria Rita Pars, edizioni Publiedit, il libro è già in libreria, lo potete trovare. Stavo parlando con Maria Emilia Bonaccorso, che è una giornalista dell'ANSA, però in questo momento volevo far sentire qualche ascoltatore, magari insieme a lei rispondiamo agli ascoltatori. Carlo, provincia di Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Dunque, io sì, sono Carlo, ho 26 anni e vivo all'Aquila, dove faccio un dottorato di ricerca, sono della provincia di Pavia, e durante, quando è scoppiata l'emergenza Covid, ovviamente sono rimasto bloccato là, e all'inizio mio padre non mi ha consigliato di non tornare a casa perché lui lavora al medico e lavora a Milano. Infatti poi dopo poco ha contratto il Covid e così anche mia mamma, per fortuna se la sono cavata, diciamo, poi dopo in maniera abbastanza lieve. E lei è sempre rimasto all'Aquila nel frattempo? Io sono sempre rimasto all'Aquila e mia sorella, che studia in Sardegna, è rimasta in Sardegna, quindi eravamo poi in una situazione... I suoi genitori, essendo anche medici, hanno pensato bene di salvaguardare i figli, ha detto stai distante perché qui esatto, è il punto più difficile. Esatto, non hanno voluto anche al primo momento, quando si poteva tornare alla residenza, non hanno voluto farci rientrare. Vabbè, sono persone e coscienziose. Poi... Sì, assolutamente sì, hanno preferito averci distanti ma saperci oggi più come sicuri. Stanno papà e mamma? Stanno molto bene e per fortuna non hanno avuto grosse conseguenze, sono riprese entrambi la propria attività lavorativa. Quello che ci tenevo ad aggiungere alla discussione molto interessante che state portando avanti è che mentre io mi trovo all'Aquila in una condizione, vivo in uno studentato fornito all'università, molti miei colleghi che non sono stati toccati neanche lontanamente da questo tipo di emergenza vivevano come se non fosse successo nulla e vivevano con una leggerezza particolare. E io a un certo punto il disagio che io ho provato è stato che si è trasformato in una rabbia fortissima, per cui io sono andato in scontro poi con tutte queste persone che mi stavano intorno perché non tolleravo la loro leggerezza nell'affrontare questo tipo di situazione, perché lo vedevo come se fosse, insomma, anche un insulto, no, alle persone che stavano soffrendo, me nel piccolo, e poi persone che hanno sofferto ovviamente molto molto di più, fino, insomma, anche a rimettersi. Quindi ecco, questo è stato il disagio che io ho provato fortissimo, oltre a essere lontano da casa, ma lo scontro con le persone che non capivano la gravità della situazione. Ecco, questo è quello che ci tenevo ad aggiungere. Esattamente, diciamo prima, la diversa percezione da un ulteriore problema nelle proprie relazioni sociali di gestire il proprio dissenso di opinione con gli altri, la persona che ti ride in faccia, dice ma che porti la mascherina, ma quanto sei esagerato, malato, schiavo del potere, tutto si dice quando siete una persona particolarmente attenta, perché magari non si è avuta la percezione fisica, l'ascoltatore ha avuto padre e madre a rischio vita perché hanno avuto il Covid in zona di pericolo e sa esattamente cosa è. Isa, buongiorno da Milano. Sì, sono Lisa da Milano, buongiorno, e io ho avuto il Covid marzo e sono rientrata a lavorare a maggio con grossi problemi, soprattutto respiratori, sono sportiva, mai avuto problemi di salute e devo dire che adesso sono rientrata al lavoro, ho grosse difficoltà, a parte al lavoro, uscire di casa, cioè io non sono più uscita per un timore che non so se trova fondamento o meno, ma la paura di riprendere rapporti sociali. Comunque io porto sempre la mascherina, lavoro a Lodi, dove siamo comunque obbligati a usare tutti i DPI di protezione lavorativi, faccio Lodi Milano avanti e indietro in metro e io uso sempre guanti e mascherina e a parte il lavoro non sono più uscita di casa. Tu fai Lodi e Milano come l'antica canzone sì. della bella Gigogì, comunque la fa con un altro intento. Professor Massimo Cozza, ecco, il tipo che analizziamo, questa ascoltatrice ci ha chiamato, persona che ha subito il Covid, passato il Covid e sa che di cosa si tratta, perché sentire il respiro che ha difficoltà e sapere che qualcosa ti può portare alla morte non è proprio un gioco. E il ragazzo con due genitori a rischio, medici, poi anche loro malati di Covid, che dicono stai lontano. È descrivibile con qualcosa che ci ricorda il passato? Voi parlate di sindrome di sopravvissuto, che è una cosa che mi fa venire i brividi, ma è qualcosa del genere però quello che accade a queste persone? Ah, questo sì, esiste questa sindrome di sopravvissuto, soprattutto chi è stato vicino al dramma, e quindi come lo sono stati loro, familiari o in prima persona, perché a volte poi la domanda poi più frequente che il sopravvissuto si pone, se ci sono stati decessi e avrò fatto tutto quello che bisognava fare, avrò avuto il comportamento adeguato, e anche colpa mia quello che è successo, anche il fatto che io mi sono magari infettato e potevo infettare gli altri. sono tutte domande che uno si fa, in cui le risposte probabilmente sono spesso che non è così, cioè nel senso che la vita si presenta degli eventi che a volte non sono controllabili, perché noi poi vengono sensi di colpa. Se ne parlava rispetto ai sopravvissuti dei momenti terribili della Seconda Guerra Mondiale, di persone che poi arrivano a togliersi la vita per non riuscire a elaborare questo fatto, cioè forse se sono morti gli altri non io, è anche colpa mia, io sono sopravvissuto e gli altri no. È una cosa veramente atroce. Maria Emilia, solo una battuta negli ultimi 20 secondi. Sei convinta che questo libro riuscirà a far capire un po' meglio e magari dare un punto di vista più obiettivo, meno legato alla propria ideologia rispetto a quello che è accaduto? Noi vorremmo questo, vorremmo, come dire, dare degli spunti di riflessione. Vorrei citare soltanto una pagina alla quale sia io che Massimo Cozza teniamo tantissimo. È una pagina, secondo noi, ce lo siamo detti anche stamattina, che forse vale l'intero libro, ed è una pagina non scritta da noi, ma da un anziano che era ricoverato in una residenza sanitaria, in un RSA, che si è trovato colpito dal virus e che ha insegnato da questa sua prospettiva che cosa può essere.